giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Scoppiata la guerra in Ucraina, anche agli agricoltori della regione era stato consigliato di piantare mais, coltura che chiede enormi quantità di acqua. Ora la siccità ha dimezzato le disponibilità idriche e i coltivatori fanno salti mortali per tenere in vita le piantagioni. Calo dei consumi e quindi dei fatturati dei supermercati, inflazione, mancanza di personale nei settori del turismo e dell'edilizia sono i nodi al pettine dell'economia emersi all'assemblea della Lega delle Cooperative che si è riunita a Trieste. Giornata storica per Monfalcone, così la sindaca Cisinta ha accolto il via libera alla firma dell'accordo di programma per il dragaggio del canale di accesso e di movimentazione del porto, un momento di svolta per lo sviluppo futuro dello scalo. A disposizione fondi per 18 milioni. Conto alla rovescia per dire addio ad Autovie Venete. Martedì 5 luglio è la data del passaggio ufficiale della concessione autostradale alla nuova società Autostrade Alto Adriatico. Ieri la giunta ha dato l'ok all'approvazione dei documenti in sede di assemblee straordinaria e ordinaria. In arrivo dal Ministero dell'Istruzione quasi 6 milioni di euro per combattere la dispersione scolastica. Andranno a 41 scuole della regione e fanno parte di una prima tranche di fondi prevista dal PNRR. La fiaccola alpina oggi da Udine a Trieste, partenza della fiamma dal comando della Brigata Iulia, arrivo sul colle di San Giusto e ormeggiata sulle rive per salutare i 150 anni di costituzione del corpo delle truppe di montagna, la fregata alpino della Marina Militare visitabile nel pomeriggio. Al via i saldi, la campagna di sconti estivi prende avvio con le festose notti bianche a Udine, Monfalcone e Trieste. A Udine stasera concerto di Francesco Gabbani, l'autore di Occidentali Scarma. Già tutto esaurito a Lignano Sabbiadoro per il Giova Beach Party 2022, il tour estivo di Lorenzo Giovanotti che tocca varie spiagge della penisola e prende avvio proprio dalla capitale balneare della regione. Seconda giornata oggi per Shorty S, la rassegna dei cortometraggi in corso a Trieste, tante le proiezioni al miele, al giardino pubblico. Noi approfondiremo il tema di un'interessante visita guidata sulle tracce del set triestino del Padrino 2, girato nel 1974. È sabato 2 luglio 2022, sono le 7:20 minuti e 45 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica subito con le temperature registrate alle 7. A Trieste 26 gradi, il mare è mosso e ha una temperatura di 27 gradi. A Pordenone 22,5, a Udine e a Gorizia 24,5. A Tolmezzo 18 gradi, a Tarvisio 13, a Forni di Sopra 14, Piancavallo 14,5 gradi, Sappada 9 gradi, sul Monte Zoncolan 13,5 gradi, sul Monte Lussari 10,5, a Grado 24,5, a Lignano 26 e qui la temperatura del mare è di 28 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno su tutta la regione e farà caldo. Su pianure e costa in mattinata soffierà borino che farà salire rapidamente la temperatura e scendere un po' l'umidità rispetto ai giorni precedenti. Brezza dal pomeriggio sui monti, tempo stabile anche nel pomeriggio con la possibilità di qualche modesto annuvolamento locale. L'emergenza idrica non passerà, è un fenomeno con il quale dovremo imparare a convivere. E così la sindaca di Gradisca di Sonzo ha chiuso la fontana in piazza. Un provvedimento simbolico al quale altri, ben più concreti, dovranno seguire. Lega Ambiente propone ad esempio di fermare la fuoriuscita continua di acqua dai pozzi artesiani. La siccità, insomma, ci sta costringendo a modificare atteggiamenti e modi di pensare e in fretta. Intanto gli agricoltori già cercano di farsi bastare la metà dell'acqua usata l'anno scorso. Le scarse precipitazioni dei giorni scorsi hanno portato qualche beneficio nel bacino del Tagliamento, ma resta critica la situazione in pianura. A Remanzacco e Premariacco la falda freatica è talmente bassa che sotto certi livelli non si può più prelevare acqua e l'orario per irrigare è stato dimezzato, per la preoccupazione di chi ha seminato, in particolare mais. Per questa stagione il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana punta a garantire a tutti un quantitativo d'acqua sufficiente per la sopravvivenza delle piante. Per il futuro è alla ricerca di finanziamenti per nuovi bacini di accumulo artificiali, per esempio in cave dismesse. Rosanna Clocchiatti, presidente del consorzio. La prospettiva qual è? È quella di lavorare ancora sulle riconversioni. Noi abbiamo ampi margini di miglioramento in questo, risparmiamo circa il 50% dell'acqua, e dall'altra parte investire nelle zone dove di fatto non si è mai irrigato e dove c'è l'esigenza, con una progettualità che va sui piccoli invasi, laghetti, chiamiamoli come vogliamo. Parliamo del Medio Friuli e della zona collinare sopra Udine. Intanto, dopo la dichiarazione di sofferenza idrica sul territorio regionale, i comitati della Bassa Friulana scendono in piazza a San Giorgio di Nogaro in difesa dei pozzi artesiani. Legambiente, all'opposto, ne chiede la chiusura o perlomeno la regolamentazione. Su un punto entrambe le parti sembrano concordare. Va convocato il rimandato tavolo tecnico regionale previsto dal piano di tutela delle acque per soluzioni strutturali, superando logiche emergenziali. A Gradisca di Sonzo il comune ha simbolicamente disattivato la fontana della piazza. L'emergenza idrica non passerà, scrive la prima cittadina. È un fenomeno con il quale dovremmo imparare a convivere. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La crisi vista dalle cooperative, dall'inflazione al calo dei fatturati dei supermercati, segno evidente della contrazione dei consumi e in contemporanea la difficoltà di reperire personale in bar e ristoranti e nell'edilizia. Ieri a Trieste l'assemblea annuale di Legacoop. L'inflazione cresce, i consumi crollano, costo dell'energia alle stelle, materie prime difficili da reperire e lavoratori che non si trovano. L'incertezza verso il futuro spinge le cooperative a bilanci prudenti all'assemblea annuale dei soci di Lega Coop FVG, che conta in regione 220.000 soci, 16.000 addetti e quasi 200 cooperative associate. Di fronte alle incognite, la scelta è puntare su innovazione e sostenibilità, a partire dal digitale, come il cluster che mette insieme tanti artigiani delle tecnologie a disposizione delle aziende in un'ottica multidisciplinare. Donato Montibello, direttore cooperativa sul digitale. Un'attività più classicamente legata al web sia un'attività che entri a contatto col mondo della produzione, col mondo del marketing, e quindi la realtà virtuale sicuramente oggi, come vediamo, è una di queste, ma anche la blockchain e l'intelligenza artificiale risultano fondamentali per lo sviluppo dell'azienda. Parola d'ordine e sostenibilità invece per un altro cluster, il primo a livello nazionale che mette in rete imprese boschive e segherie di prossimità per valorizzare la materia prima al legno. Tanti progetti in cantiere. Carlo Piemonte, direttore Foresti Cluster. Vanno dalle certificazioni delle imprese di gruppo, che fare insieme meglio che fare da soli, per arrivare fino ai temi della sicurezza nei cantieri forestali. Il bosco e le foreste sono un tema molto complesso. Le imprese, per poter crescere, devono fare sistema. E in questo stiamo vedendo veramente importante partecipazione. Trieste, Navitaliani, TGR, Friuli Venezia Giulia. Svolta importante nello sviluppo futuro del porto di Monfalcone. Con l'autorizzazione alla firma dell'accordo di programma si apre la strada all'escavo del canale d'accesso dello scalo. Con questo atto si rendono disponibili all'impiego i 18 milioni di euro per i lavori che, previa la nomina di un commissario straordinario, potranno quasi certamente iniziare già a settembre, hanno dichiarato congiuntamente il presidente della regione Massimiliano Fedriga e la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, i quali hanno parlato di una giornata che rimarrà nella storia di Monfalcone. L'opera consiste nell'approfondimento dei fondali del porto mediante il dragaggio del canale di accesso e del bacino di evoluzione dello scalo marittimo. E ieri è stato compiuto anche un passo avanti verso il trasferimento della concessione autostradale da Autovie Venete alla nuova società Autostrade Alto Adriatico. Sono gli ultimi passaggi. Il 5 luglio ci sarà l'approvazione formale dei documenti chiave nell'ambito dell'assemblea della società Autostrade Alto Adriatico, interamente pubblica, destinata a subentrare ad Autovie Venete nella concessione di parte della rete autostradale fra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il funzionamento della nuova società, le varie fasi del passaggio, i rapporti istituzionali sono stati definiti in una corposa documentazione, tra cui piano economico-finanziario, regolamento del comitato di indirizzo approvata dalla giunta regionale, sulla quale si stava lavorando da parecchi mesi. Una volta ottenuto il via libera in sede di assemblea straordinaria e ordinaria, il presidente della regione Fedriga potrà firmare a Roma l'accordo di cooperazione con Regione Veneto e Ministero delle Infrastrutture, una firma vicinissima quindi. Dal 1 gennaio 2023, secondo l'assessore regionale alle finanze Zilli, sarà operativa la nuova concessione trentennale. Tra i documenti approvati c'è il regolamento del comitato di indirizzo, che avrà un ruolo centrale nel funzionamento della nuova concessionaria, un po' come avviene per le grandi fondazioni. Avrà poteri di indirizzo, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione della società. C'è poi lo schema di accordo fra le due società, Autovie e la nuova concessionaria, e Regione Friuli Venezia Giulia per la parte patrimoniale e finanziaria dell'operazione, in modo da garantire la prosecuzione dei lavori per la terza corsia. L'assessore Barbara Zilli ha parlato di un momento storico di svolta per la viabilità autostradale nel nord-est. Il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Moretti, ha detto che si è compiuto un importante passo in continuità col lavoro svolto dalla precedente giunta di centrosinistra. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Per contrastare la dispersione scolastica e le povertà educative e superare i divari territoriali, al Friuli Venezia Giulia saranno destinati 5.920.000 euro per 41 istituti scolastici. Si tratta di una prima tranche di finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR. Lo rende noto il Ministero dell'Istruzione. In questi giorni ho firmato la prima tranche di risorse del piano contro la dispersione scolastica, che andrà avanti fino al 2026. Abbiamo 1,5 miliardi a disposizione, ha dichiarato il ministro Patrizio Bianchi. I primi 500 milioni serviranno a finanziare progetti in 3.200 scuole medie e superiori, con studentesse e studenti nella fascia 12-18 anni. I progetti partiranno con il prossimo anno scolastico e avranno durata biennale. Un appuntamento politico adesso. Trieste, da appuntamento stamattina dinanzi all'orto botanico di via Marchesetti nel rione di San Luigi per una nuova esplorazione urbana. Il giardino sostiene la formazione politica, è tanto bello quanto poco valorizzato. Incontro alle 10.30. Si è conclusa a Trieste una delle prime procedure in Italia di esdebitazione del debitore incapiente, cioè di cancellazione del debito di una persona senza beni o reddito sufficiente a ripagare gli impegni presi. Il giudice del foro triestino, applicando la legge 3 del 2012, ha infatti dichiarato inesigibili oltre 360.000 euro di debiti di un'ex imprenditrice nata a Trieste, ora residente all'estero. Il caso riguarda una giovane donna, ora disoccupata, che aveva aperto e gestito un locale in città. Nel 2019 l'attività era cessata in quanto le spese erano di gran lunga superiori alle entrate. Per la donna l'unica soluzione possibile era stato il ricorso alla legge risalente a 10 anni fa e che fu emanata appunto per offrire una soluzione alla crisi di tutti i soggetti esclusi dal fallimento, in particolare consumatori e piccoli imprenditori e le loro famiglie. La fiaccola alpina è arrivata ieri a Udine, oggi tappa finale con l'arrivo a Trieste, capolinea di un itinerario di 1500 chilometri che ha attraversato tutto l'arco alpino. A Udine ieri si è svolto un convegno sul ruolo degli alpini nel soccorso alle popolazioni. Vajont, i terremoti del Belice, Friuli, via via sino alle recenti calamità, l'apporto degli alpini sia in armi che in congedo è sempre stato fondamentale per le popolazioni colpite. Un patrimonio di esperienze, volontà e entusiasmo canalizzato dove vi sono necessità. Questo è stato lo spirito del convegno che si è svolto a Udine, una delle tante tappe di avvicinamento ai festeggiamenti per il 150° anniversario di fondazione del Corpo. Sergio Santamaria, maggiore generale, comando logistico. Quanto è stato importante l'esperienza fatta in Friuli? Quell'esperienza è la base sulla quale abbiamo costruito negli anni anche la nostra professionalità nell'intervento. Ma il legame tra il Corpo degli Alpini e il Friuli Venezia Giulia è indelebile sin dai tragici eventi che hanno segnato il nostro territorio. Sebastiano Favero, presidente ANA. Si è creato quel legame profondo, strettissimo, tra la gente del Friuli e gli alpini che direi oggi è rimasto e rimane tuttora uno degli elementi importanti. È quel segno di solidarietà, di disponibilità che gli alpini sempre sanno dare e che qui in Friuli hanno trovato anche la risposta della gratitudine della gente. Intanto ha fatto il suo ingresso a Udine tra gli applausi per la penultima tappa, la staffetta alpina preceduta dallo schieramento della fanfara e dai gonfoloni, tanta la gente che dopo la deposizione di una corona d'alloro ha assistito all'arrivo della fiaccola, partita di corsa da Ventimiglia il 6 giugno e che dopo un itinerario di 1500 chilometri suddivisi in 23 tappe giungerà a Trieste. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Trieste la fiaccola alpina arriverà alle 18 sul colle di San Giusto, dove sarà anche deposta una corona. Quindi visita alla Cittadella, lo spazio espositivo di mezzi ed equipaggiamenti delle truppe alpine dell'esercito in piazza dell'Unità d'Italia. La tappa si concluderà poi al molo Bersaglieri, dove è ormeggiata la nave alpino della Marina Militare, visitabile dalle 15 alle 18. Per l'occasione, fino a domani al Palazzo della Camera di Commercio in piazza della Borsa, sarà possibile ripercorrere un secolo e mezzo di eventi grazie a un'enorme tavola illustrata che espone la storia delle penne nere. Ieri un picchetto armato degli alpini ha reso omaggio ai quattro compagni d'arma fucilati a Cercivento il 1 luglio 1916, dunque 106 anni fa. Silvio Gaetano Ortis, Basilio Matiz, Giovan Battista Corradazzi e Angelo Massaro rifiutarono di eseguire un ordine, un attacco sul Monte Cellon che sarebbe stato un inutile suicidio. Dopo un veloce processo farsa fu decisa per loro la condanna a morte. In loro memoria il 1 luglio si celebra la giornata regionale di restituzione dell'onore istituita nel 2021. La cerimonia ieri era cominciata con la messa di suffragio alla Pieve di San Martino ed è culminata nell'omaggio davanti al cippo che ricorda i fucilati alla presenza di decine di penne nere. Giornata d'esordio per i saldi estivi in regione, iniziativa che durerà fino al 30 settembre. In regione tre centri prevedono la notte dei saldi con aperture di negozi protratte oltre il normale orario. A Trieste è in programma il servizio di Park & Bus dalle 15 alle 21 al costo di 1 euro sulla rete di TPL FVG. Per chi parcheggia l'auto a Upicina, al Park Bovedo, al Ferdinandeo o al Piazzale delle Puglie. Prevista anche la chiusura al traffico dalle 19 fino all'1 di notte in diversi luoghi, dalle rive a Piazza Goldoni, così da dare spazio alle esibizioni tra le vie cittadine di atleti, ginnasti e skaters. A Monfalcone una serata di musica, cibo, shopping in cartellone anche a Udine, con un'iniziativa speciale in più per il dopo cena. Essere o dover essere. Udine infatti ha affidato al cantautore Francesco Gabbani, di cui state ascoltando il brano Occidentalis Karma, il compito di concludere la giornata con un concerto emozionante. Dal palco del Castello, il vincitore di due Sanremo consecutivi proporrà i suoi successi più noti, da Occidentalis Karma a Viceversa, da Tra le granate e le granite a Amen, oltre ai pezzi del suo ultimo disco. Inizio concerto alle 21:30. Cercasi, storie dal gran finale, spera. E sono attese oltre 60.000 persone al Jova Beach Party 2022, il tour del cantante Lorenzo Jovanotti, oggi e domani sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, che vedrà l'artista impegnato in console e l'apporto di ospiti nazionali e internazionali da oltre 30 paesi, con inizio alle 14 e fino a notte fonda. Tre i palchi dello show, tutti animati da Jovanotti, già dall'apertura delle porte, con scalette musicali work in progress. Già esauriti i biglietti di oggi. È affidato alla cantautrice Judy Collins il cartellone di stasera di Folkest, rassegna di musica folk, che consegnerà il premio Folkest Una vita per la musica all'artista statunitense, di cui state ascoltando la canzone Turn Turn Turn, e che è anche rappresentante UNICEF per la soppressione delle mine terrestri o navali. L'evento presenterà l'ultimo lavoro di Collins, l'album Spellbound, uscito lo scorso febbraio, con 13 pezzi, da cui emerge una rinascita artistica dal tono introspettivo, e si dà spazio anche a momenti formativi della cantautrice, alcuni noti e pubblici, altri più personali ed intimi. Collins parteciperà a un incontro pubblico a Spilimbergo, al Teatro Miotto, alle 12, per poi esibirsi in Piazza Duomo alle 21:15. Il cartellone della rassegna Suns Europe, Festival Europeo delle Arti Performative in Lingua, oggi include l'autrice Alide Sans e la sua poesia libertaria, che si sposa con i ritmi globali di soul, rock e hip hop, restituiti in una forma acustica diretta e proposti in occitano aranese su temi universali, con una spiccata attenzione al sociale, a Villalta di Fagagna, a Chiase di Catine alle 21. La storia che non c'è è un'iniziativa di gioco letterario di analisi e narrazione di un racconto. Due scrittori sul palco ricevono infatti dal conduttore un titolo. È il racconto che dovranno imbastire e scrivere. Prima dialogheranno tra loro e col pubblico nella ricerca di un significato, di una trama. Quindi si porteranno in un luogo appartato a produrre la piccola opera letteraria. Durante il loro sforzo creativo, dei musicisti si esibiranno in un breve concerto. A fine serata i due racconti verranno letti al pubblico. Appuntamento con Rocco Burtone, che dialogherà con Antonella Favaro e Paolo Mosanghini a Flaibano in piazza alle 21. Oggi in seconda serata su Rai 1 torna l'appuntamento con I Nostri Angeli, programma condotto da Emma D'Aquino e dedicato al premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, quest'anno alla 19ª edizione. Istituito dalla Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Hrovatin, il premio è riservato ai giornalisti e ai fotografi che con il loro lavoro sul campo raccontano le violenze e le sopraffazioni sulle vittime più indifese, i bambini. Sotto i riflettori la città di Trieste, nei cui luoghi chiave si avvicenderanno le interviste con molti ospiti, dal direttore di Radio 1 Rai Andrea Vianello, al vice direttore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, al presidente della Federazione Nazionale della Stampa Giuseppe Giulietti e alla corrispondente Rai da Parigi Giovanna Botteri, oltre ai vincitori del premio Lucchetta. Lo sport, dopo due anni di stop, ritornano a Paluzza i campionati regionali FIDA, l'individuale di corsa in montagna di tutte le categorie, dunque giovanili, senior e master. La gara sarà anche valida come quarta prova del 54esimo trofeo Michele Gortani di corsa in montagna. I diversi percorsi si snoderanno su strade e sentieri limitrofi al centro turistico dell'Alta Valle del But. Gli atleti delle categorie assolute e master si sfideranno invece sul percorso predisposto in occasione dei campionati mondiali master di corsa e montagna. Inizio competizione alle 15.30, premiazione alle 19.30 alla caserma Mentil in via Nazionale. Sarà un derby croato fra Tara Wurt e Lea Buskovic ad assegnare il titolo dell'ottava edizione della Città di Tarvisio Tennis Cup, torneo internazionale femminile con montepremi da $25.000. Nel doppio impegno di giovedì, Wurt prima ha superato 6-1-6-0 Arianna Zucchini e poi 7-5-6-3 la slovena Dalila Jakupovic. Boskovic ha impiegato oltre due ore per avere la meglio, 6-4, 2-6, 6-2, sulla campionessa in carica Cristina Dinu e poi in due ore scarse ha sconfitto a sorpresa, 6-4, 6-4, la terza teste di serie Camilla Rosatello. La finale del singolare è in programma alle 16.30. Apre sull'edilizia scolastica il piccolo di Trieste. Oltre 3 milioni per il via ai cantieri estivi è il titolo principale di prima pagina. Sotto, a centropagina, foto di gruppo per i vertici della nuova compagine societaria che ha rilevato la Triestina. Andiamo all'interno del giornale, a pagina 10. La regione fissa i paletti per lo smart working nel pubblico impiego. Parte la nuova fase, non più strumento d'emergenza, ma pratica abituale per gli oltre 13.000 dipendenti del comparto unico. Sono esclusi i dirigenti. Sulle due pagine di economia. Finisce l'era di autovie, via libera alla Newco per la Venezia Trieste. Nell'altra pagina le cooperative resistono al Covid, ma adesso spaventa il caro prezzi sull'assemblea annuale di ieri di Lega Coop. Nelle pagine cittadine si annuncia ampia la partecipazione allo sciopero nazionale dei tassisti in programma il 6 e il 7 luglio. E poi la cronaca, baby bulli al giardino pubblico scoperti dopo l'appostamento, 12enne malmenato, minacciato con un coltellino e costretto a rubare da una banda di adolescenti. La madre ha sporto denuncia ai carabinieri. L'apertura del Messaggero Veneto per il balzo dell'inflazione all'8%. Si fa poi il punto sul tema siccità in vista delle verifiche odierne sul territorio dell'assessore con delega alla protezione civile Riccardi. Fotonotizia per il reportage da San Giorgio di Nogaro sulla manifestazione di ieri sera a difesa dei pozzi artesiani a cui hanno partecipato 5.000 persone. Approvata una mozione a rifiuto dei limiti imposti dal decreto regionale che limita la portata a 200 litri al giorno per abitante. Spazio anche alla bozza approvata dalla Regione, ora in approvazione dei sindacati, per il ricorso abituale allo smart working dei 13.000 lavoratori del comparto pubblico. Capocronaca dell'edizione di Udine, un'inchiesta sulle 65 realtà che organizzano i centri estivi per 6.000 ragazzi della provincia. Il Gazzettino, nell'edizione di Udine, apre sul piano regionale dei rifiuti in seguito all'adozione in via preliminare della Giunta, con un'analisi su discariche, impianti di trattamento e costi di milioni di euro di trasporti fuori regione. Sul piatto l'eventuale allestimento di un termovalorizzatore. Fotonotizia per l'omaggio militare degli alpini ai fucilati a Cercivento. Per il calcio l'acquisto di 5 giocatori stranieri per l'Udinese, per il basket l'ingresso dell'americano Sherrill in Apo Udine. Monfalcone conquista l'apertura dell'edizione isontina del Piccolo. Dragaggi, via ai lavori, sbloccati 18 milioni. La giunta regionale ha dato l'ok al governatore Fedriga per la firma dell'accordo di programma. Si tratta dei lavori di approfondimento dei fondali del porto di Monfalcone. A centropagina una bella immagine del giardino viatori in fiore. All'area verde però manca un parcheggio. Il flusso di visitatori è notevole, 3.500 dallo scorso 3 aprile. All'interno l'apertura delle pagine di Gorizia è sfida fra Negro e Paoletti per la presidenza del Consiglio dopo le recenti elezioni comunali. L'apertura del Monfalconese è sull'accordo di programma per dare il via ai dragaggi nei canali di accesso del porto. Lo sblocco delle risorse presuppone la nomina di un commissario straordinario. È l'ammiraglio Aurelio Caligiore, ex comandante della Capitaneria, attualmente in pensione e considerato un esperto di dragaggi. Nelle pagine della provincia, i carabinieri del NAS anche al comune di Gradisca per acquisire carte dell'appalto alla Sodexo, poi la visita al centro di cottura di via della Campagnola che serve scuole e casa di riposo. Capocronaca dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, l'accordo tra comune e fondazione ITS Alto Adriatico per la gestione dell'immobile ex birreria, una volta riqualificato, per destinare una parte degli spazi del vecchio immobile all'Istituto per Tecnici Superiori. Spazio poi al varo della nuova giunta di Azzano Decimo, ora composta da 7 assessori. L'edizione di Pordenone del Gazzettino pubblica un'analisi sui numeri del Covid, secondo cui l'ondata influenzale del 2018 aveva registrato più contagi della variante Omicron, il cui picco è atteso per metà luglio. Spazio poi ai ritardi nell'apertura della bretella sud a causa della difficile reperibilità di materiali e ancora la richiesta della Federazione Tabaccai di commissioni zero per l'uso del POS obbligatorio da 2 giorni. Per l'economia l'approvazione del bilancio 2021 di Comet, cluster della metalmeccanica regionale, che ha chiuso l'anno con una crescita del 17% rispetto all'anno precedente. Seconda giornata per Shorts, la rassegna cinematografica triestina che oggi include diversi appuntamenti come la sezione Shorts Virtual Reality, in cui la casa del cinema si trasforma in una sala cinematografica virtuale, con un visore per ciascuna postazione, poltrone girevoli che permettono di muoversi a 360 gradi nello spazio per sperimentare un nuovo modo di fare cinema. L'inizio alle 18, le proiezioni serali invece prevedono il via alle 20 al Teatro Miela con il film Lettone Troubled Minds, alle 21:15 invece al Giardino Pubblico sarà accessibile la sezione maremetraggio con la proiezione di 10 titoli. Primo appuntamento odierno della rassegna è quello con la passeggiata cinematografica della sezione esterno giorno dedicata al film Il Padrino di Francis Ford Coppola, di cui ricorrono i 50 anni dall'uscita in sala. A Trieste, nella ex pescheria, nel 73 furono infatti girate le scene del Padrino 2 dello sbarco a Ellis Island con i controlli sanitari degli immigrati. Appuntamento alle 10 alla Casa del Cinema con la guida Elisa Grando, a cui abbiamo chiesto il motivo per cui questa scena venne girata proprio a Trieste. Francis Ford Coppola intanto arrivò con tutta la famiglia, con la figlia Sofia che aveva solo 3 anni, poi diventerà una grande regista, con la moglie Eleanor. Aveva alloggiato l'hotel Duchi d'Aosta, ma soprattutto ha molto frequentato la Cappella Underground per delle proiezioni, guardava il girato del giorno proprio nella sala di allora della Cappella Underground in Via Franca e si spostava appunto sempre con la famiglia. L'aneddoto invece importante per la città è che le riprese hanno coinvolto 700 comparse, quasi tutti appunto triestini, e 200 persone delle maestranze, molti americani, in parte però anche italiani e triestini. Quindi le riprese hanno preso non solo l'ex pescheria, ma anche parte della stazione marittima, trasformando proprio tutto il centro di Trieste in questa rinnovata Ellis Island, con tutti vestiti e ovviamente pettinati alla Foggia d'inizio Novecento. Nel 1974, nel giorno di Pasqua e di Pasquetta, Francis Ford Coppola ha girato questa scena in cui la pescheria diventa Ellis Island a New York. Il giovane Vito Corleone all'inizio del Novecento arriva lì, è immigrato ovviamente dalla Sicilia a New York e in realtà, diciamo, arriva a Trieste, perché la scena appunto è stata girata per motivi logistici a Trieste, e ce lo racconterà molto bene Gabriella Belloni, che è una filmmaker, una regista. In quel caso lavorava nella troupe di Coppola al Padrino, ma veramente per un caso del momento Coppola le ha chiesto anche di interpretare una parte, cioè quella dell'infermiera che spiega al piccolo Vito Corleone, appunto in italiano, che ha il vaiolo. Pasolini on the road, lo spettacolo per due attori, musica dal vivo, tratto dal reportage La lunga strada di sabbia di Pierpaolo Pasolini, che sarà presentato a Trieste al Parco del Civico Museo Sartorio alle 21. Slow Swim, invecchiare con stile, è l'iniziativa sull'invecchiamento attivo ricorrendo al nuoto e all'attività motoria in acqua. La manifestazione prevede la partecipazione di 13 squadre dalla regione e anche da Austria, Slovenia e Croazia alla staffetta 360, perché la somma delle età dei componenti, suddivisi in squadre di 3 uomini e 3 donne, deve raggiungere almeno i 360 anni complessivi. A Trieste, alla Piscina Bianchi, dalle 16. Una cinquantina di squadre di calcio prenderanno parte al 13° Spasovdansky torneo, iniziativa che include sport, cultura, tradizione e cucina tipica serba. Per la prima volta arriverà una squadra americana dal New Jersey ad aggiungersi agli atleti da Francia, Austria, Svizzera, Germania, Slovenia, Croazia, Serbia e da tutte le parti d'Italia, che gareggeranno nel fine settimana sul campo sportivo di Domio. Ancora alcuni appuntamenti. Il Festival itinerante della conoscenza Dialoghi prosegue con un focus sui crimini informatici, con la partecipazione di Gianni Cuozzo, esperto di intelligence militare, e in collegamento Floriana Bulfon, giornalista di Repubblica, a Romance di Sonso a Casa Candussi Pasiani alle 18.30. Alla stazione Topolò, inaugurazione dei 3.000 metri quadri del giardino ricavato dal roveto sottostante il paese, con partenza dalla chiesa alle 10. Nel pomeriggio, verso le 4, l'happening C'è speranza se questo accade a Topolò, omaggio a Mario Lodi, ideato da un gruppo guidato da Enrico Strobino e innovatore nella pedagogia musicale. A seguire la presentazione del progetto L'altra parte, viaggio sonoro letterario nel mondo delle api. Con il buio, la prima visione di piccolo film per MR, girato a Topolò dal triestino Alessandro Ruzier, cui fa seguito Water, concerto di un giovane trio internazionale. La premiazione del vincitore della terza edizione del premio letterario Sergio Maldini sarà annunciata a Santa Marizza di Varmo a Casa Maldini alle 18. Nel corso dell'evento, fissato nell'anniversario della scomparsa dello scrittore, previsti momenti musicali a cura di Nicoletta Pinosa al violino e di Sebastiano Zanetti alla chitarra. Uno sguardo ai programmi radiofonici della nostra sede. Alle 11.30 Biblos, l'ultima puntata della stagione dedicata ai giovani scrittori. Umberto Sebastiano, autore del romanzo d'esordio Il mondo finirà di notte, racconto della vita di un gruppo di adolescenti nella Pordenone degli anni Ottanta. E poi Luigi Torreggiani con Questo bosco è di tutti, delicata storia d'amore tra ragazzi come spunto per parlare del nostro rapporto con i boschi. Infine i consigli di lettura di un giovanissimo libraio, Tommaso Lovat. Noi ringraziamo Viola Romanese e Andrea Fontanot per l'assistenza tecnica in regia e in sala controllo. I nostri prossimi appuntamenti con l'informazione su questa frequenza, l'edizione delle 12.30 del giornale radio, e alle 14 su Rai 3 andrà in onda il telegiornale. Potete seguire gli aggiornamenti delle notizie sui nostri profili Twitter, Facebook e Telegram e sulla pagina web della nostra redazione all'indirizzo rainews.it/tgr/.